come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Ergastolo al padre mostro, accetto la sentenza, la sua prima reazione, finirà in un ospedale psichiatrico, la figlia Elizabeth paghi per i suoi delitti fino alla morte. Ancora mistero sulla donna trovata legata in una pensione a Roma, il volto tumefatto, a terra, mani e piedi legati, addosso una finta cintura esplosiva. Seconda misteriosa incursione a Perugia nella casa in cui venne uccisa Meredith, ancora sotto sequestro. Atto a sfondo intimidatorio tra le ipotesi, domani nuova udienza. Se il capo in ufficio provoca, il dipendente può rispondere per le rime senza rischiare il licenziamento. La Cassazione detta le condizioni per un'espressione anche pesante, purché non sia una minaccia. E va bene, possiamo insultare però con moderazione il capo ufficio senza correre il rischio di essere licenziati. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Ergastolo a Josef Fritz, il padre mostro che ha segregato e violentato la figlia per un quarto di secolo, sconterà la pena in un istituto psichiatrico dove resterà almeno per 15 anni. Sono pentito di cuore, ha detto, accetto la sentenza. La figlia Elizabeth commenta, deve pagare fino alla morte. Stasera, puntata speciale di Live sull'Orco di Amstetten. È un giallo il ritrovamento a Roma di una donna picchiata e narcotizzata in una pensione a pochi passi dalla stazione. Indossa una cintura solo apparentemente carica di esplosivo. Una macabra messa in scena sulla vittima, una quarantenne con precedenti per truffa. Nuova visita di sconosciuti nella casa di Merit. È la seconda volta in un mese monta la polemica. Perché la villetta non è sorvegliata mentre a Cogne a vigilare su quella di Samuele da 5 anni c'è un'auto della polizia? 16 alunni intossicati in classe dalle figurine puzzolenti. È successo. Va bene, dalle figurine puzzolenti ad alcune notizie del giorno, anzi ad uno strepitoso Umberto Bossi. Comunque la pensiate, qualche volta non le manda a dire. Bossi ha detto, nell'ordine, primo, sulle parole del Papa, i preservativi profilattici, insomma quelle che hanno fatto discutere nei giorni scorsi, beh, se tutti facessero come me, ha detto Bossi, cioè una moglie e stop, l'AIDS non si diffonderebbe. Questa è una frase strepitosa che vi lancio. La seconda è questa: il problema è che la polizia dovrebbe buttare fuori i clandestini come in Israele. Se arrivano le denunce e poi non puoi buttarli fuori, si perde solo tempo. E da questo punto di vista, diciamo un po' rozzamente, però non è che abbia tutti i torti. Ma un altro protagonista di oggi è sempre lui. Quindi io sono un democratico, io credo molto più che alle azioni di guerriglia che credo al voto. E quindi l'onda non l'ho vista nelle elezioni recenti degli studenti. Sono dei guerriglieri e verranno trattati come guerriglieri. Ma insomma l'onda non esiste, sono solo dei guerriglieri. Nei giorni scorsi ci sono state piccole scaramucce, scontri in diverse università, soprattutto alla Sapienza, per le ragioni più varie, tra la polizia e i gruppi di studenti. Brunetta una volta, anzi sempre contestato quando va in qualche università o va in giro da gruppetti vari, dice insomma l'onda non esiste, non è rappresentata, non ha nessun rappresentante, nessuno l'ha votata, eppure bloccano la vita universitaria, sono dei guerriglieri. A un certo punto ci ripensa, perché la parola guerriglieri in realtà è una parola nobile, sentite. Mi sono sbagliato, non hanno la dignità di guerriglieri, i guerriglieri sono una cosa seria. Questi sono quattro ragazzotti in cerca di sensazioni più o meno violente, che non rappresentano nessuno, che fanno perdere del tempo alla polizia che dovrebbe essere impiegata per cose più serie, che non hanno alcun seguito nelle università italiane, che non si sono presentati alle elezioni. Se Fioroni, il Partito Democratico, li difende, ce ne facciamo una ragione, prendiamo atto che il Partito Democratico difende quattro ragazzotti in cerca di sensazioni. Io preferivo il vecchio Partito Comunista Italiano. Mi attirerò le ire e le arrabbiature magari di molti di voi che ci stanno ascoltando, perché già leggo alcuni messaggi: non si può provocare in questo modo, eccetera, ma io sono d'accordo al 150% con le parole di Brunetta, soprattutto quando pronuncia queste parole, sentite. Come si definisce chi infrange le regole, chi fa violenza sulle strade, chi costringe la polizia a scontri? La polizia, che ha altro da fare, dovrebbe fare altro. Io sto dalla parte dei poliziotti, io sto dalla parte dell'ordine pubblico, io sto dalla parte delle regole, io sto dalla parte di chi vuole manifestare legalmente, democraticamente. Io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti, non di questi signori che per avere una qualche visibilità usano la violenza. Sto dalla parte della democrazia. Questo, Brunetta, c'è da ridere a sentire alcune reazioni. Picerno, Pina Picerno, Partito Democratico: Brunetta si scusi per la violenza delle parole. Voi avete trovato violenza in queste parole? Magari sì, ditemelo. Bonelli, Verdi: da Brunetta dichiarazioni da regime cileno. Zazzera, Italia dei Valori: Brunetta come Mussolini, addirittura. Beh, insomma, Italia dei Valori e Mussolini di solito viene citato spesso. Bernocchi, Cobas: Brunetta cerca visibilità. Questo è proprio moderato, Bernocchi. Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista: Brunetta provocatore, manganellatore, addirittura. Unione Studenti: Brunetta si scusi e si dimetta. Ancora Donadi, Italia dei Valori: Brunetta parole da piccolo duce. Beh, insomma, avete visto la parola duce negli esponenti dell'Italia dei Valori ritorna spessissimo. 800 24 00 24. Prima del traffico, la carica dei 101, i 101 deputati del PDL che sono contro le norme, alcune norme sulla sicurezza, in particolare quella sui medici obbligati, oppure no, non è ancora chiaro, a denunciare i clandestini. Devono essere almeno un centinaio. E aggiungo anche molti più di 101 deputati. Sì. Un'ubriacatura di democrazia. 1, 2, 3, 4, 7. Il compito dei medici è curare e non diventare delle spie o diventare dei detective. 36, qua giù. 36, 11, 47. Ma aspetta un momento, altri 6. Quando siamo in presenza di un voto di coscienza, la fiducia sia uno strumento che non può e non deve essere usato. Ma vediamo un po': 84 più 15 più 2. No, Berlusconi non si deve arrabbiare. Questo è il compito dei parlamentari: è fare le leggi e cambiare le leggi. Ma no, niente meno: 101! 101? Da dove verranno? C'è una sensibilità e un'intesa con il presidente della Camera Fini. Sono andata anche al Quirinale a parlare con Napolitano. Oh, pongo, vecchia canaglia! Di sicuro non è stato certo Fini a sollecitarla, ma credo che i deputati si stiano rendendo conto della strumentalità della vicenda. Può essere, perché molti dei presunti firmatari sono venuti a scusarsi questa mattina dicendo di essere stati strumentalizzati. Cosa ne facciamo adesso? Li teniamo? In questa casetta compreremo una casa più grande in campagna. Sarà sensazionale. Nella casa delle libertà. Facciamo un po' come cazzo ci pare. E va bene, 18:46, si discute anche nella caserma PDL, qualcuno che definisce caserma, poi bisogna vedere come andrà a finire. Abbiamo con noi, lo ringraziamo ancora una volta, Santo Versace. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori. Che è un esponente del Popolo della Libertà, come sapete, stilista, eccetera, eccetera. Senta, Versace, allora, lei fa parte di questi famosi 101, noi abbiamo messo la musichetta, sì, della carica dei 101. Qualcuno dice sono strumentalizzati, addirittura qualcuno ha fatto marcia indietro, certamente non lei, ma no? Guarda, no, sì, finisci, scusa. No, prego, prego. Ma mi pare che oggi ci sia un'ansa di Silvio Berlusconi, il presidente, che dice che anche lui avrebbe firmato. Sì, dice sono vicino allo spirito di queste 101 persone. Non credo che nessuno si sia strumentalizzato, se poi giochiamo, ma abbiamo messo la firma coscientemente. È un discorso per dire: lavoriamo e ragioniamo. Il Parlamento è sovrano e noi in questo caso, siccome sono argomenti delicati, volevamo che il Parlamento avesse la possibilità di discutere e di intervenire. Senta, Versace, le chiedo una cosa. Lei pensa davvero che sia una norma pericolosa questa, che secondo alcuni obbliga, secondo altri non obbliga il medico a denunciare il clandestino? Io su questo argomento, se sia pericoloso o meno, relativamente le opinioni possono essere diverse, però io ritengo giusto che ho firmato quella richiesta, perché si discuta in Parlamento e si decida insieme a tutti. Non con la fiducia, non con la fiducia. No, perché la fiducia bloccherebbe tutto, quindi non ci sarebbe possibilità di modifiche. Io penso che si possa migliorare, cioè il concetto è che il Parlamento lavora per migliorare le leggi e noi siamo in grado sempre, se si può discutere quando c'è il tempo, perché purtroppo qui c'è un problema, bisogna cambiare i regolamenti parlamentari. Che il Premier e il Governo hanno le loro ragioni per dire che non si riesce mai a portare a compimento una legge. Questo è un problema, ma in questo caso abbiamo ritenuto giusto chiedere una discussione in Parlamento. Senta, nel merito però mi dica, perché se lei ha firmato, oltre alla questione formale, che pure è importante in questo caso, della fiducia o meno... Perché penso che sia migliorabile, che si possa modificare, perché mi sembra un po'... C'è l'obbligo, secondo lei, se ci fosse l'obbligo, non è ancora chiaro se c'è... Il timore è quello, ovviamente ora ci sono pareri diversi e discordi, io volevo che in questo caso si chiarisse perfettamente e non ci fosse l'obbligo, ecco, che ci fosse chiarezza, siccome ci sono pareri discordanti, che noi puntualizzassimo bene quelle norme in maniera che non ci fosse l'obbligo. Senta, c'è un pericolo, come dice qualcuno, per esempio, di un calo delle vaccinazioni per la paura di andare nei presidi sanitari? Io penso che in questi casi, quando ci sono i dubbi e la gente ha timore, si nasconde, ovviamente potrebbero esserci dei danni, quindi è questo che ci ha portato a firmare quell'emendamento e ad arrivare velocemente a 101 firme, ma le dirò di più, io ho sentito un po' di amici che non hanno firmato, di colleghi, hanno detto no, non c'ero in quel momento, avrei firmato, quindi con un po' più di calma e di tempo le firme sarebbero state molto di più. Senta, un'ultima cosa, noi siamo molto interessati sempre alle sue proposte di legge perché sono concrete, come quella sulle province, come sa, anche noi siamo... Anche al comitato che non voto, non ritirerò la scheda per votare alle province. Anche lei lo farà, non ritirerà la scheda? Assolutamente, l'ho detto e stanno aderendo tutti quelli che hanno... Cioè, c'è un'adesione abbastanza... Meno male, meno male. Che lo sanno... Meno male. Senta, un'altra cosa, lei propone una legge per impedire il fatto che un magistrato si candidi, però un magistrato è un cittadino... Che un magistrato si candidi. Che aspetti il tempo giusto come tante altre funzioni dello Stato, cioè? Cioè il sindaco potesse dimettere 6 mesi prima, allora si dimettano 6 mesi prima, cioè il concetto è della regolarità, di non avere privilegi. Eh beh, ho capito, però il magistrato perché secondo lei dovrebbe aspettare, cioè dovrebbe dimettersi e poi? Aspettare quei 6 mesi minimo che sono previsti dalla legge, leggiamo la Costituzione, per tanti ruoli o tante leggi è previsto che uno che occupa una posizione, anche dei burocrati, si dimettano o rinunciano a quella posizione con un certo anticipo, si mettono in aspettativa. Ma io sulla magistratura, sulla giustizia presenteremo anche altre cose, perché la giustizia secondo me si fa bene, va riformata. Cioè secondo lei io leggo qui, la giustizia in Italia non funziona. No certo, però lei dice ci vuole una norma che regoli l'ingresso in politica dei magistrati. Lei dice bisogna o dimettersi o mettersi in aspettativa almeno 6 mesi prima di... Certo, come per tanti altri ruoli. Cioè, ma possono rientrare, secondo lei possono rientrare? Ma privilegi che non sono corretti. Ma secondo lei possono rientrare dopo in magistratura oppure qualcuno dice di no? Ma uno che fa politica non dovrebbe più rientrare in magistratura, la mia idea è questa. La ringrazio molto, la ringrazio molto, buona serata. Grazie anche a lei, buona serata. 18:53, Daniele, provincia di Pescara, buonasera. Salve, buonasera a lei. Dica. Io volevo intervenire, lei ha iniziato la trasmissione, ha presentato le dichiarazioni di Brunetta e congiuntamente poi con tutti gli esponenti dell'opposizione. Ecco, io al riguardo volevo dire qualcosa. Penso che un idiota rimane un idiota quando fa violenza, quando spacca le vetrine, quando si comporta, diciamo, in un contesto non democratico. Non c'è dubbio. Però quello che mi sembra di osservare, anche quello che dicevo alla collega che mi ha poi passato in, è che in Italia l'esercizio del dissenso va scemando, nel senso che sparisce. In Francia per molto meno, io sono precario, ma poi gli studenti sanno che tra poco lo diventeranno. E in Francia per molto meno la popolazione esprime il suo dissenso, a volte anche eccessivamente, però quello che è che il governo è molto attento a tutto quello che la sua popolazione chiede. In Italia... No, non ho capito, mi scusi Daniele, lei dice in Italia il dissenso non si può esprimere, a me non pare, insomma. Non è che il dissenso non si può esprimere, un certo tipo di dissenso o perlomeno certe forme. Ma come non si può esprimere? L'università è piena di manifestazioni, assemblee, cose, si può esprimere continuamente il dissenso, a me non pare che non si possa esprimere. Ma anche prendendo le mazzate, però mi scusi Daniele, il monopolio, le mazzate, io non so, i singoli episodi non li riconosco nella loro dinamica, per come si svolgono. Mi scusi un attimo. Il monopolio della violenza, da che mondo è mondo, da quando esiste uno Stato democratico, è nelle mani delle forze dell'ordine e della polizia. Naturalmente questo monopolio della violenza va esercitato con discernimento, va esercitato con moderazione, come è evidente che sia. Però, come lei sa bene, ci sono alcune manifestazioni che sono regolamentate, altre che non sono regolamentate, gli studenti possono fare delle cose come altri manifestanti e altre cose non le possono fare, la polizia cerca di controllare, si creano spesso degli attriti. Ora, quando Brunetta dice io sto dalla parte della polizia, come non si può stare dalla parte della polizia in alcuni casi? È quello che mi domando io, capito Daniele? Sì, ma la polizia, io mi riferivo che spesso, come è già successo, la polizia purtroppo, ma si tratta di situazioni programmate, io voglio credere alla polizia perché la polizia spesso mette dei guastatori, o perlomeno così pare, non è che possiamo ragionare per dietrologie, chi lo dimostra? Si mettono dei guastatori, ecco. Per far che cosa? Per provocare incidenti, dice. Le discariche sono state date mazzate, parliamo di quelle di Caiano, poi al di là dell'intenzione, sono state mazzate anche a donne e bambini, mazzate, manganellate, io dico percosse. Daniele, c'è un modo, secondo me, ecco. Cioè la polizia esagera, secondo lei? La polizia spesso esagera. Purtroppo spesso esagera, ma quello che mi preoccuperebbe è che qualche volta certe situazioni per reprimere questi disagi che vanno anche repressi sono fatte adottando delle strategie premeditate che sono discutibili. Non lo so, Daniele, guardi, adesso bisogna portare delle prove. Guardi, Daniele, la ringrazio molto di questo intervento. Io dico semplicemente che da anni l'università, in particolare la Sapienza di Roma, non solo, è in mano, tra virgolette, in mano a gruppi che fanno il bello e il cattivo tempo. Fanno quello che vogliono, occupano le aule, eccetera, eccetera. Su questo non c'è nessun dubbio. Andiamo subito a sentire come il TG3 ci presenta la giornata di oggi. Berlusconi, dopo la rivolta dei 101, sulla sicurezza la Lega non può volere tutto, condivido lo spirito della lettera dei parlamentari. Fini, apprezzo le parole di Berlusconi, Bossi, il premier è un amico, troveremo un accordo, il PD, norme disumane che vanno cambiate. Quegli studenti sono guerriglieri, così il ministro Brunetta dopo gli scontri alla Sapienza di Roma, l'opposizione dichiarazioni irresponsabili. In Austria condannato all'ergastolo il padre che ha sequestrato e violentato la figlia per 24 anni, la vittima paghi finché vive. Napolitano ricorda Marco Biagi sui temi del lavoro, riforme ineludibili ma bisogna abbandonare lo spirito di fazione che avvelena la politica. Autoveicoli, petroliferi e tesseri guidano il crollo del 25% delle esportazioni, risultato più basso dall'86. In migliaia per ricordare Don Diano, ucciso dalla Camorra 15 anni fa, il padre del sacerdote, è cominciata la fine dei casalesi. Premi Nobel e professori a Roma, da tutto il mondo per il Festival della Matematica, dal gioco all'economia, non possiamo farne a meno. Va bene, voglio riprendere uno dei titoli principali del TG3, quello su Brunetta e i guerriglieri. In realtà, come sapete, poi Brunetta a un certo punto ha detto no, non sono nemmeno guerriglieri, sono quattro ragazzotti. Perché i guerriglieri hanno molta più dignità. Andiamo a sentire i titoli di Sky. Berlusconi, stop alla Lega, sono esigenti, non possono avere sempre tutto. Subisce pressioni dal PDL, risponde Bossi, ma per noi resta un amico. Botte alla Sapienza, Brunetta smorza i toni, quattro ragazzotti non guerriglieri. Immigrati, la Gelmini propone un tetto, al massimo il 30% in ogni classe. Il Papa in Africa, l'affondo, le multinazionali, mano tesa all'Islam sul dialogo. Austria, verdetto unanime, carcere a vita per il padre mostro che sarà internato. Donna legata con finta cintura esplosiva a Roma, forse una vendetta della mala. Bimbi in auto senza seggiolino, ogni anno in Europa ne muoiono 5.000. Gran Bretagna, beneficenza reale, William sostiene i piccoli malati di cancro. Nuove regole in Formula 1, Montezemolo duro, scelta assurda e pericolosa. Bene, 19:20, 800 24 00 24, le due versioni della maggioranza sulla vicenda degli immigrati e dei medici. Sentiamo per prima Alessandra Mussolini, che questa mattina è stata ospite di 24 Mattino, sulla questione, sul punto principale. Sentiamo. Giuristi, ma lo stesso Gaetano Pecorella, che ha firmato la lettera dice rientra nel 361 e nel 362 con l'obbligo di denuncia, altrimenti c'è il reato, c'è omissione di denuncia perché è un penale, siamo nel codice penale, quindi queste sono cose note. Quando si fa una legge si deve sapere che poi non si può scaricare su persone che sono impreparate, che non hanno questo compito. Il compito dei medici è curare e non diventare delle spie o diventare dei detective. Il compito degli insegnanti è integrare e insegnare, non è certamente quello di denunciare. Questo lo devono fare le forze dell'ordine. Questo dice Alessandra Mussolini. Il senatore, se non sbaglio, Mazzatorta della Lega, uno di quelli che sostiene che c'è questo obbligo di denuncia, sentiamolo. Combattere la clandestinità vuol dire in primo luogo fare in modo che i clandestini escano dal nostro territorio, escano dal territorio dell'Unione Europea, cioè non trovino le condizioni per poter entrare nel nostro territorio e soggiornarvi tranquillamente, addirittura avendo prestazioni sanitarie, servizi scolastici di ogni tipo, perché altrimenti diventiamo davvero il ventre molle dell'Europa, e l'Europa ci sta avvisando di questo, dice attenzione, voi non potete comportarvi in questo modo, mentre la Francia, per esempio, addirittura vieta l'assistenza sanitaria ai clandestini. La Germania obbliga la denuncia ai sanitari per la presenza dei clandestini. L'Olanda la limita l'assistenza sanitaria ai clandestini solo al pericolo di vita e non come noi facciamo oggi, praticamente assistenza sanitaria ai clandestini è tutto, tutte le prestazioni sanitarie. Noi non possiamo essere un buco nero dell'Europa in materia di lotta alla clandestinità. Bene, andiamo bene o male a seconda dei punti di vista, naturalmente. 800 24 00 24, andiamo a sentire ieri sera durante la trasmissione di Chiambretti Show su Italia 1 un duetto, chiamiamolo così, sulle parole del Papa sui preservativi tra Cecchi Paone, chiaramente contro le parole del Pontefice, e Nicola Legrottaglie. Nicola Legrottaglie è un giocatore della Juventus che da qualche tempo a questa parte cosa ha fatto? Si dedica soprattutto a Dio, dice, cioè si è convertito, insomma, in realtà è diventato molto religioso, ha fatto voto di castità, addirittura credo dice che è in astinenza da diversi anni. Sentite. Posso fare una prova? Prego. Allora, questa cosa qui si chiama condom oppure preservativo oppure profilattico. Sì. Qualunque persona per bene, qualunque persona che segue la scienza e il buonsenso dice che questo è l'unico modo per evitare gravidanze indesiderate. Gravidanze indesiderate, malattie gravi come la gonorrea o la sifilide, malattie gravissime come l'AIDS, che in certi paesi come l'Africa sono mortali. Allora, il Papa sta dicendo in queste ore di non usarlo. Ma l'avrà detto veramente? È stato virgolettato? L'ha detto e lo hanno detto anche i suoi predecessori. Allora, mi dispiace, ma io vorrei fare da controcampo e da controcanto. Ragazzi, usatelo, perché sennò morite e sennò vi ammalate. Famiglie, fatelo usare ai vostri figli, se no si ammalano e muoiono. E volevo sapere cosa ne pensa lui. Io ovviamente te hai dato questo consiglio e io do un altro consiglio, che è la mia esperienza di vita. Seguite i consigli di Dio, perché seguendo i consigli di Dio eviterete tante cose brutte nella vostra vita. E questo significa che Dio ha creato l'uomo e la donna per un unico scopo, è il matrimonio. Quindi io dico il matrimonio. Poi lui si può neanche sposare perché ha scelto. Lo dice la Bibbia. E tutti quelli che non sono sposati, che fanno l'amore, chi sono? Io parlo di quello che leggo nella Bibbia e credo fortemente nella parola di Dio. Questo è da Legrottaglie, prima era Cecchi Paone. Fate voi, 800 24 00 24. Ripeto, il protagonista del giorno, non c'è dubbio, almeno secondo me, Renato Brunetta. Prima dice quelli dell'onda, il movimento studentesco, sono guerriglieri, poi si corregge. Mi sono sbagliato, non hanno la dignità di guerriglieri. I guerriglieri sono una cosa seria. Questi sono quattro ragazzotti in cerca di sensazioni più o meno violente, che non rappresentano nessuno, che fanno perdere del tempo alla polizia, che dovrebbe essere impiegata per cose più serie, che non hanno alcun seguito nelle università italiane, che non si sono presentati alle elezioni. Se Fioroni, il Partito Democratico, li difende, ce ne facciamo una ragione. Prendiamo atto che il Partito Democratico difende quattro ragazzotti in cerca di sensazioni. Io preferivo il vecchio Partito Comunista Italiano. E poi dice: io sono dalla parte della polizia. Come si definisce chi infrange le regole, chi fa violenza sulle strade, chi costringe la polizia a scontri? La polizia, che ha altro da fare, dovrebbe fare altro. Io sto dalla parte dei poliziotti, io sto dalla parte dell'ordine pubblico, io sto dalla parte delle regole, io sto dalla parte di chi vuole manifestare legalmente, democraticamente. Io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti, non di questi signori che per avere una qualche visibilità usano la violenza. Sto dalla parte della democrazia. Eccoci qui alle 19.26, sempre all'800 24 00 24, per chiamarci. Tra l'altro, recentemente ho visto uno straordinario film che ha un titolo. Vi dico prima di cosa parla questo film. Un gruppo di studenti in Germania che per una settimana deve simulare, secondo le indicazioni di un professore, un gruppo neonazista, con tanto di capo, di ruoli, di divisa, e si trasforma però questo gruppo, questa classe, si trasforma in qualcosa di intollerante, qualcosa di pericoloso, con un finale anche drammatico, insomma in qualcosa di antidemocratico. Sapete come si chiama, che nome si dà a un certo punto questo gruppo, questa classe? Ebbene, si chiama l'onda. Di questi tempi c'è rimasto qualcosa contro cui ribellarci. Quello che manca alla nostra generazione è qualcosa che crei coesione, un obiettivo comune. Non è una stronzata. Voi dite che in Germania una dittatura non sarebbe più possibile? Lo escludo, ne conosciamo le conseguenze. Così, molto bene. Stiamo diventando lentamente un corpo unico. Che cos'altro è importante in una dittatura? La disciplina, signor Wenger. Il potere attraverso la disciplina. Noi stasera facciamo una festa. Noi? Vuoi dire quelli dell'onda? E ora la festa continua! Questo è il nostro simbolo. E come un'onda travolgeremo tutta la città. Che cos'hai contro l'onda? Ti prego, Marco, devi aprire gli occhi. L'onda sta diventando una cosa pericolosa. Sparisci o ti faccio un buco in fronte. Metti giù quella pistola. Tim. Hai perso il totale controllo della situazione. Completamente. L'onda, movimento che diventa a un certo punto in Germania, in un film, un movimento di intolleranza. Secondo un ascoltatore, Giorgio, che mi scrive una mail e si domanda perché invece non si deve sempre stare dalla parte della polizia, le cose della Sapienza sono andate in modo piuttosto diverso. La Sapienza di Roma, la Celere, la Finanza e i Carabinieri hanno chiuso letteralmente i tre varchi della cittadella universitaria da cui potevano uscire gli studenti per partecipare a una manifestazione della CGIL regolarmente indetta e almeno finora non fuori legge. Sottile ironia quella dell'almeno finora. La forza pubblica pare abbia manganellato al solo scopo di non fare uscire gli studenti finché c'era la manifestazione CGIL nei paraggi. Molti feriti e contusi tra gli studenti nonostante non avessero né caschi né manganelli. Ma lei ha deciso che Brunetta e la polizia hanno ragione, gli studenti sono solo guerriglieri. Guardi, non ho deciso questo e non so, ho premesso come sono andate le cose. Appare evidente che la sua è una ricostruzione evidentemente di parte, tra virgolette, cioè la ricostruzione degli studenti. La ricostruzione della polizia magari è un po' diversa. La decisione di non far uscire gli studenti magari è una decisione presa per motivi di sicurezza pubblica, semplicemente per questo, per non far mischiare le manifestazioni. Non lo so, so solo che spessissimo si creano incidenti, a prescindere dal caso singolo, tra studenti e polizia. Non è che la colpa può essere solo della polizia. Mi scrive ancora questo ascoltatore, Giorgio: in un centro di accoglienza e identificazione nei pressi di Roma, ieri sera un algerino ha dichiarato di stare molto male, di avere bisogno di un medico, ma è stato maltrattato dalla sua amata polizia, che lo accusava di mentire e che ha rifiutato qualsiasi assistenza. Stamattina il povero algerino, 44 anni, è stato trovato morto nella sua branda. Qualcuno lo piangerà, ma a lei la notizia non piace e non la segnalerà per niente. Solo i radicali si dimostrano come al solito come persone civili e ne parlano. Allora, guardi, Giorgio, io non so, non posso verificare. Mi sembra che lei abbia già dato due verdetti, però, nonostante le cose possano essere andate diversamente. Cioè, la colpa degli scontri è della polizia, la Sapienza. E questo algerino è morto per colpa, ancora una volta, della polizia o di non so chi non gli abbia dato assistenza. Può darsi, ma mi sembra che lei abbia già emesso dei verdetti, assolutamente. Guglielmo da Salerno, buonasera. Buonasera a lei, dottore. Dica. Io sono un addetto ai lavori, sono un poliziotto, sono un ispettore, uno di quei colleghi, e Campanellatori di Roma, come dice il suo ascoltatore di prima, come, o un guastatore, come dice l'altro di Pescara. Niente di più falso, è assolutamente falso. Siamo in uno stato di diritto, quello che ci insegnano è prima di tutto parlare dell'ordine pubblico. Quando ci sono gli scontri, quando ci sono gli incidenti, l'ordine pubblico non è tutelato e quindi abbiamo fallito, insomma. Abbiamo fallito a Roma perché ci sono stati degli scontri e in qualsiasi altro stadio, in qualsiasi altra manifestazione. Per questo noi siamo assolutamente contrari a qualsiasi tipo di iniziativa che possa portare a degli scontri. Per questo quando succede una cosa del genere, perché non si è potuto evitare oppure perché la cosa è stata gestita male, ma sicuramente non siamo dei guastatori. Cioè, Guglielmo, lei dice non c'è un qualcuno che pensa prima all'interno della polizia a provocare scontri, questo è impensabile secondo lei? Sì, assolutamente, ma anche perché noi ne rispondiamo penalmente. Te immagini se un magistrato scopre che qualcuno di noi ha provocato qualche incidente. Sì, diciamo che è molto difficile provarlo, Guglielmo, è molto difficile provarlo. No, non è difficile provarlo, basta una fotografia di uno di noi che magari è dall'altra parte della barricata e sta provocando gli incidenti. E questo praticamente potrebbe portarci dritti a un processo. Per questo è impossibile una cosa del genere, non è proprio pensabile, né tantomeno saremmo tutelati dalla nostra amministrazione. Che ne pensa che ne pensa delle frasi di Brunetta? Poi devo aggiungere solo un'altra piccola cosa riguardo al centro d'accoglienza. Un ascoltatore che prima ha scritto che nel centro d'accoglienza algerino non è stato soccorso. Io so come funzionano i centri d'accoglienza. Nel centro d'accoglienza l'assistenza è data dalla Croce Rossa e all'esterno la vigilanza è fatta dalla polizia, cioè l'extracomunitario che è chiuso nel centro d'accoglienza non può uscire fuori. Quindi la polizia lo blocca all'interno. Dunque lei dice non c'è nessuna responsabilità. No, assolutamente. Non sappiamo come ma funziona. Perché lei dice che l'assistenza viene data dalla Croce Rossa. Ci sono gli addetti della Croce Rossa che soccorrono, danno coperte, danno giubbotti, li assistono, distribuiscono i pasti. Noi all'interno non entriamo se non ci sono delle rivolte, come è successo. Sì. Tant'è vero che lei ha visto il caso di Lampedusa, dove praticamente hanno avuto la libertà di incendiare coperte, letti, di dare fuoco all'interno, all'interno, e poi dopo è intervenuta la polizia, perché noi non entriamo all'interno dove la gestione è fatta dalla Croce Rossa. Va bene, Guglielmo, la ringrazio, buona serata. Andiamo a sentire da Siena Giuseppe, buonasera. Una veloce precisazione: chi si serve del Servizio Sanitario Nazionale o va dal medico di base, e il medico di base ha gli elenchi delle persone che sono affidate a lui, sì, oppure si va all'ospedale. Quando si arriva in un ospedale, sia che si arrivi in ambulanza in emergenza, che ci si vada a piedi, la prima cosa che succede è una identificazione al triage per sapere chi c'è davanti. Quindi non c'è un'identificazione da parte dei medici, è già la struttura che è prevista abbia una identificazione del cittadino o chiunque sia che gli si presenta avanti. È molto marginale il quantitativo di persone che si rivolgono ai medici freelance. Che poi... No, mi scusi, però Giuseppe, se uno è un clandestino, facciamo un esempio concreto, no? Evidentemente non ha documenti, diciamo, italiani, no? Però magari ha un documento di un paese, oppure non ha documenti. Va per un'emergenza al pronto soccorso, non è che non lo curano perché non c'ha il documento, eh? Ma lo curano lo stesso, abbia pazienza. Curano sempre e chiunque. Certo, un conto è l'identificazione e un altro conto è quello che non avvenga, ma tutti gli ospedali hanno il posto di polizia al loro interno. Quindi io la vedo molto fatua questa polemica, perché di fatto qualunque persona si rivolga alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale di fatto viene riconosciuta subito e non è il medico a fare eventualmente la dichiarazione di illegittimità d'ingresso, perché c'è la polizia. C'è il posto di polizia all'interno dell'ospedale. Ma certo. Naturalmente, ma certo. Naturalmente ci sono anche quei casi in cui non si va in un presidio ospedaliero, ma ci si rivolge appunto ad un medico, eccetera, al di là dell'ospedale, no? E dunque non è che c'è il poliziotto accanto. No, no, nell'ospedale. No, nei casi in cui non si va in ospedale, dico. Sì, ma sono veramente marginali e ci deve essere un medico che si presta a trattare in una forma, come dire, anonima una persona che non conosce, cosa estremamente pericolosa. Per cui lei pensa che con la presenza della polizia all'interno dell'ospedale, col fatto che comunque bisogna esibire un qualsivoglia documento quando si viene curati, eccetera, eccetera, bisogna dare delle generalità, sia una polemica sterile questa qua? Certamente sì, anche perché, facendo un passo successivo, visto che tutto è informatizzato, basterebbe che la check del triage, così si chiama l'ingresso in ospedale, venisse automaticamente passata, perché è tutto computerizzato, al servizio di polizia e a posteriori chiunque sa che un certo tizio, che si può chiamare come gli pare, è entrato in quell'ospedale, ha avuto il suo servizio, è stato curato, è stato mandato via anche con i medicinali se ne ha di bisogno, perché io alcune polemiche che vengono fatte da taluni, mi chiedo in quale parte d'Italia stiano, perché nella parte d'Italia in cui c'è il Servizio Sanitario Nazionale, che viene gestito sul territorio per le emergenze dal 118, funziona così, vuol dire che non lo conoscono. Non mi stupirebbe naturalmente se queste polemiche poi in fondo nascessero dal nulla e non avessero fondamento nella realtà. È vero, Giuseppe, che abbiamo sentito negli ultimi giorni, negli ultimi 20 giorni, da quando si è aperta questa polemica, le associazioni dei medici dire no, non vogliamo fare i delatori, le spie, e dunque anche loro non si rendono conto della situazione. Mi sembra strano, Giuseppe. C'è evidentemente questa possibilità che i clandestini vadano a farsi curare e che poi successivamente se ne vadano senza essere riconosciuti, senza che intervenga la polizia. Evidentemente questa possibilità c'è, altrimenti di cosa stiamo parlando? Hai ragione, dottore, ma riguarda solamente i medici che fanno la professione privata. Non i presidi ospedalieri. Ma certamente no, solamente i medici privati, quelli che fanno ambulatorio a casa loro o nel loro studio medico. Tutto il resto è tutto quanto ben identificato, anche perché il 118, ad esempio, io mi sento male, chiamo il 118, ho bisogno di aiuto. 118. Guardi, un ascoltatore non ti chiedono i documenti in ospedale, basta dichiarare le generalità false, certo. Poi aggiunge. Ho capito, però certo. A quel punto uno dichiara la generalità, sì, mi chiamo Abdullahi Youssef, adesso non per fare un torto ai... Perfetto. Eccetera, non, poi le generalità sono false, certo il medico non le controlla, e allora? Ovviamente, ma non riguarda il medico controllare i documenti, anche perché non ne ha giuridicamente la possibilità. Solo un agente della polizia può chiedere i documenti a un cittadino che sia italiano. Cioè, secondo lei comunque un medico non è che può segnalare qualcosa immediatamente alla polizia se ha un sospetto di clandestinità, non è che uno è clandestino e ce l'ha scritto in fronte, questo vuole dire lei? No, può segnalare se arriva una persona che ha avuto un accoltellamento o è stato sparato, ma come lei capisce, ovviamente non ci si rivolge su un fatto così grave da un medico privato per farci fare Cioè, se viene uno e dà generalità false, il medico non si può rendere conto che queste qua siano false, allora perché dovrebbe avvertire la polizia, diciamo, no? Ovviamente no, il medico non può chiedere i documenti a una persona. Chiunque si può rifiutare, gli dice Topino, io sono un privato, mi dici quanto ti devo dare, ti do 100 euro, 500 euro, mi curi e via, ma su un fatto grave, come può capitare quasi sempre, o una malattia pesante, o un evento stradale o meno pesante, ovunque in Italia si va in ospedale, non ci interviene, certo, non c'è dubbio. Giuseppe, la ringrazio, buona serata. Buona a voi, grazie. Andiamo a Torino da Davide, buonasera. Dica. Io volevo esprimere una riflessione che ho fatto oggi sul caso Pripke, che sbaglio. Beh, Pripke, lasciamolo stare. Fritz. Che sono Fritz. Un po' in attesa e allora ho il cervello. Vabbè, ma non fa niente, abbiamo capito che voleva parlare del caso Fritz. Chiedo scusa. Che c'è da discutere? Mi sembra che non ci sia nulla. No, infatti, hanno dato alla nostra magistratura, mi sembra, una bella lezione e non ho sentito nessuno oggi che l'abbia rimarcato. Cioè, lezione di che? di velocità, questi l'hanno preso pochi mesi fa, l'hanno già processato in 3 giorni e già è assolutamente... Beh, adesso processato in 3 giorni non mi sembra, perché l'hanno preso già mesi fa, per cui qualche tempo è passato. Poi... No, il processo si è aperto due giorni fa, io ascolto Sky. No, e... certo, ma non c'è dubbio che sia. In 2 giorni, cioè noi abbiamo dei processi, e mi è capitato di assistere, abbiamo dei processi che durano per delle bazzecole, ma dei mesi. Ho capito benissimo, non mi sembra una riflessione campata in aria, però devo dirle che innanzitutto per fortuna non abbiamo mai avuto un caso di questo tipo in Italia, comunque un caso così eclatante, con questi dettagli, con questi particolari, con questa crudeltà, con questa forza e anche con tutto quello che c'è dietro una vicenda di questo tipo, per cui non si possono fare paragoni. Credo che in casi analoghi in cui in realtà non c'è dietro nulla, cioè c'è già una confessione, il caso è abbastanza chiaro pur nella sua, ripeto, drammaticità, le cose si risolvono rapidamente anche in Italia, magari sì, certo non in 3-4 giorni, magari ci vorranno 15 giorni, adesso non lo so perché, ripeto, non c'è un caso simile, però mi sembra che la celerità in questo caso sia figlia di una vicenda che, nonostante i dettagli atroci, è però persino l'avvocato di Fritz oggi ha detto non poteva che finire in questo modo. Perché quando è così la velocità è quasi naturale. Andiamo a Firenze da Francesco, buonasera. Pronto? Buonasera Francesco. Salve, ora mi scusi, non sono abituato a parlare in pubblico. Non si preoccupi, vada tranquillo, dica quello che vuole. Dissento su quello che ha detto Brunetta e anche sul giudizio che lei ha fatto. A Roma è stata fatta un'ordinanza per impedire le manifestazioni alla Sapienza. Su questa base le forze dell'ordine sono intervenute in zona e hanno di fatto impedito agli studenti di uscire di lì per andare verso la manifestazione. Non è stato fatto alcuna provocazione da parte degli studenti prima che la polizia caricasse. La polizia ha caricato solamente per il fatto dell'assembramento delle persone. Cioè per impedire che questi studenti uscissero fuori. Esattamente. E in quanto alla dichiarazione di Brunetta, io non so veramente cosa dire, ma a me non mi sembra veramente una cosa fuori dal mondo. No, però mi scusi, qui bisogna dividere. Io la dinamica, naturalmente me l'hanno raccontata, nessuno la può sapere con certezza, naturalmente, perché poi è evidente, ma come lei sa. Perché neanche io la so. No, Francesco, no, appunto, lei riporta, naturalmente, per esempio, adesso leggevo prima un esponente della CGIL. Alla Sapienza, fatto gravissimo, violazione della libertà di manifestare, impedire agli studenti, colpi di manganello, questo naturalmente è accaduto ieri, di uscire pacificamente in corteo il giorno dello sciopero generale della conoscenza indetto dalla a sapore di una provocazione, invita gli studenti dell'Onda a continuare le iniziative pacifiche, eccetera eccetera. Questa è la versione naturalmente di chi dice c'è stata un'aggressione premeditata da parte della polizia, un'aggressione da parte della polizia senza giustificazioni verso chi voleva uscire dalla Sapienza. Guardi, il discorso è che ora lei prima mi ha parlato con un ascoltatore e chiedeva di avere prove, per esempio, di provocatori della polizia o comunque di cose premeditate. Ora io ovviamente non posso sapere, e penso che non lo saprò mai, se questa cosa è stata premeditata o meno. Però ora io, in base al tempo anche disponibile, potrei portarle anche prove o comunque fatti che sono successi, di cui io sono testimone, di forze comunque dello Stato che sono state fatte comunque entrare in certi tipi di associazioni, autonomie politiche eccetera, per fare da provocatori. La Stato non si legge solo su forze legittime. C'è anche un saggio di Francesco Cossiga, che a lei piace tanto, che parla specificatamente di questo. Lo Stato non è fatto solamente di cose legittime. No, ma certo che no, ma non sono mica uno sprovveduto, so benissimo che esiste da che mondo è mondo lo Stato utilizza per i suoi fini naturalmente anche azioni di provocazione, sabotaggi eccetera, lo so benissimo Francesco, certo. Mi sembra che in questo caso non si possa parlare di sabotatori, insomma, no? Ma in questo caso è semplicemente mancanza di democrazia in Italia da un certo punto di vista. Ma guardi Francesco, lei ha detto all'inizio, mi scusi Francesco, lei ha detto all'inizio esiste un protocollo per i cortei, no? Un nuovo protocollo di cui si discute per i cortei, evidentemente... Non che si discute, Alemanno l'ha già fatto passare. No, l'hanno firmato anche i sindacati, non tutti, ma l'hanno firmato anche i sindacati, alcuni sindacati, leggo qui dalle agenzie. Queste regole evidentemente sono state fatte applicare magari in maniera un po' brutale in alcuni casi, eccetera, eccetera. Una carica della polizia, ora non so se l'ha mai vista lei, ma è un po' brutale. Una carica della polizia è qualcosa di più di brutale. Io mi dispiace anche perché comunque ovviamente non è che io sia contro della polizia, ho anche tanti amici che lavorano nelle forze dell'ordine, certi metodi non sono, anche se la colpa fosse il 50% degli studenti e il 50% della polizia, il fatto che la polizia abbia una colpa in questi atti è molto più grave, è semplicemente molto più grave. Poi ora, negli eventi che io le dicevo, ora non so se per esempio se lei si ricorda di quando Berlusconi disse la Toscana è il buco nero della democrazia. Vabbè, adesso questo che c'entra adesso? Vabbè, ora era solamente per dirle che sono stato presente in vari casi a delle cose che sono state montate poi ad arte per poi semplicemente giustificare certi tipi di dichiarazione, ma quello di Brunetta, perché non in TV, ora ringrazio la radio che permette di parlare di prima mano. No, ma lei può parlare, può dire quello che vuole, lo vede, insomma, pur avendo magari un'idea diversa di quello che deve essere il ruolo della polizia in alcuni casi, eccetera, lei è libero di esprimere tutta naturalmente la sua opinione come vuole, per quanto tempo vuole. Quello lì sicuramente, ma questo solamente nella radio, per esempio, dove può parlare un cittadino di prima mano, ma per esempio la maggioranza della popolazione italiana non si informa attraverso la radio, si informa attraverso la televisione. Nella televisione... Scusi un attimo Francesco, lei dice non c'è questo approfondimento sui singoli dettagli, il corteo, come è andata, come non è andata, che magari si può sentire altrove. Lanza ieri sera riassumeva in questo modo, non è che sia espressione dell'ordine Lanza, sono giornalisti liberi che fanno il loro mestiere. Gli studenti dell'Onda tornano a farsi sentire, ma stavolta impattano contro le cariche delle forze dell'ordine e il protocollo di restrizione dei percorsi dei cortei a Roma. Nel giorno dello sciopero indetto dalla CGIL contro Italia e il governo all'istruzione, le forze dell'ordine, applicando il nuovo regolamento, hanno caricato per 3 volte gli studenti della Sapienza che tentavano di uscire dalla città universitaria per sfilare con un corteo non autorizzato nella capitale. Dopo una mattinata di tensioni vissute attorno alle mura della città universitaria, gli studenti si sono riuniti in assemblea chiedendo di prendere una chiara posizione alla CGIL, che poche settimane fa aveva sottoscritto in prefettura assieme ad altri sindacati e ai maggiori partiti un documento che stabilisce itinerari precisi in occasione delle manifestazioni della capitale per limitare i disagi della cittadinanza. Stamattina, dopo una prima manifestazione all'interno dell'ateneo, i dimostranti avevano cercato di rinforzare il cordone di poliziotti e carabinieri all'entrata principale dell'università, scatenando la prima carica delle forze dell'ordine che presidiavano anche altri accessi. I dimostranti non hanno desistito, provando a passare da un'entrata secondaria in via dell'Ollis, ma sono stati nuovamente respinti da una seconda carica delle forze dell'ordine. Allo stesso modo è stato impedito l'ultimo tentativo. Ora, Francesco, mi pare evidente che qui c'è un gioco, no? Cioè, gli studenti, quelli almeno impegnati in queste manifestazioni, sanno benissimo cosa accade. Ed è evidente che sanno benissimo come provocare questo scontro. Non è la polizia, mi sembra, da questa ricostruzione dell'Ansa, che provoca lo scontro. Sanno che c'è un regolamento, sanno che questo regolamento impedisce naturalmente un certo tipo di manifestazioni, come lei ha letto dall'Ansa, dalla ricostruzione dell'Ansa, e cercano naturalmente di rompere questo regolamento. La polizia cerca di applicare fino in fondo, magari con degli eccessi, eccetera, eccetera, eccetera, questo regolamento, o no? Il problema è un'altra cosa, fondamentalmente quello che a Roma poi è successo è che non è che fosse un corteo vero e proprio quello che si stava per svolgere dalla Sapienza, ma gli studenti si erano ritrovati lì, poi evidentemente hanno anche fatto una sorta di manifestazione. Anche ho capito, ma le manifestazioni possono essere autorizzate o non autorizzate. Qui siamo abituati ormai al fatto che uno si può riunire e fare una manifestazione come gli pare in qualsiasi momento e senza autorizzazione. Almeno l'autorizzazione bisogna chiederla. No? Poi in Italia, come è normale che sia, meno male, c'è la possibilità di fare qualsiasi manifestazione, come è noto, e dunque, però l'autorizzazione ci deve essere, almeno chiedere, voglio fare manifestazione questo giorno o no? Era una manifestazione, era un punto di ritrovo. Ho capito, cioè, quando un corteo si forma, a un certo punto è una manifestazione, quando si forma un corteo è una manifestazione, più o meno una manifestazione. Francesco, adesso io non lo so, francamente non mi voglio addentrare in questo particolare. Mi sembra che ci sia, in questo caso, un evidente tentativo da parte di gruppi di studenti che appartengono alla contestazione più dura, anche nei confronti del governo, delle politiche dei governi, non solo del governo Berlusconi, anche di altri governi, di forzare la mano, o no? Posso dirle una cosa? Mi dica, però, mi dica. Su questo fatto, Cruciani. Forzare la mano, a un certo punto di vista, ora io non sono più almeno dentro a certi tipi di esperienze politiche, anche perché nel bene o nel male non so se non se ne parla, però certi tipi di esperienze portano solamente ad accumulare denunce. Quello che voglio dire è che semplicemente certe forme di dissenso, se non trovano modo di farsi parlare di sé in televisione, semplicemente non esistono. Cioè, in questo momento ci sono tantissimi studenti che sono contro la riforma, ma con ragioni più che sacrosante, perché comunque E allora semplicemente. Ma questo dissenso mi sembra si possa esprimere in mille occasioni, in mille momenti, in mille. Abbiamo avuto manifestazioni per settimane. Abbiamo avuto manifestazioni per settimane. Come no, Francesco? Quanto se ne è parlato? Ma se ne è parlato, guardi, per un mese intero. Poi adesso, chiaramente, come al solito. Sui contenuti della manifestazione. Ma sì, ma su tutto, Francesco. La ringrazio del suo intervento. Devo dare spazio ad altri. Grazie mille. Buona serata. 19:56. Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, io intervengo sulla stessa questione dell'ascoltatore precedente, col quale sono in completo disaccordo. Io ieri sono un dottorando alla Sapienza. Ieri ero alla Sapienza, ero l'altro ieri alla Sapienza, anche oggi sono alla Sapienza. Ha assistito a quello che è accaduto o no? Ho assistito a quello che è accaduto, ho assistito anche alla preparazione, perché questi ragazzi si sono preparati martedì per questa manifestazione, non per riunirsi alla Sapienza e parlare, ma per fare una manifestazione, e chiaramente sapevano benissimo a che cosa stavano andando incontro. Tra l'altro, in questa riunione che hanno fatto martedì nell'atrio della facoltà di lettere, erano come, ecco, Brunetta ha sbagliato a definirli guerriglieri, ma poi si è corretto, ha detto sono quattro ragazzotti. Effettivamente nel numero ci si avvicina, perché in 30 hanno paralizzato una facoltà intera su temi di cui in quel momento almeno non importava granché la maggior parte delle persone, ma questo è un altro discorso. È il discorso Alessandro. Eccoci alle 21 minuto, andiamo ai titoli del TG5. Berlusconi: sulla crisi siamo stati tempestivi, daremo idee all'Europa. Immigrazione: la Lega non può volere tutto. Bossi: siamo amici, troveremo un equilibrio. Benedetto XVI in Camerun, tuona contro multinazionali, trafficanti e corrotti che depredano l'Africa. Tra i malati di AIDS dice: davanti alla sofferenza servono rispetto e tenerezza. Josef Fritzl è stato condannato all'ergastolo, sconterà la pena in un istituto psichiatrico. La figlia: mio padre, paghi fino alla morte. Aveva piccoli precedenti penali la donna trovata legata in una pensione di Roma, aveva il volto tumefatto e una cintura da kamikaze, ma senza esplosivo. Cash e Tango, due labrador addestrati a fiutare l'odore dei soldi, sono i primi cani arruolati dalla finanza per i controlli in aeroporto. Aveva risposto pesantemente al superiore ed era stato licenziato, ma per la Cassazione insultare il capo durante un alterco non è motivo per il licenziamento. Allora, Emiliano da Verona mi scrive: anche ad un medico privato bisogna dare le generalità per la fattura. Questo scrive a proposito della polemica sui medici e sugli extracomunitari, sui clandestini. E un altro: sono testimone oculare dei disordini all'università, quei giovani erano forsennati pazzi che hanno tirato sassi che potevano uccidere i poliziotti. Ancora un altro messaggio, anzi andiamo ai titoli del TG1. Sicurezza Berlusconi, Lega esigente, non può volere tutto, Bossi è un amico, troveremo equilibrio, PD cambiare la legge. Austria, ergastolo a Josef Fritzl, sarà internato, segregò e violentò per 24 anni la figlia che dice deve pagare a vita. Il Papa, multinazionali sfruttano l'Africa e sull'AIDS siamo coi malati, al Tg1 padre Lombardi, portavoce della Santa Sede. Bari, almeno 400 persone positive ai test dopo la morte della prostituta malata di TBC. Cancro alla prostata, test per la prevenzione poco efficaci, a dirlo due studi in Europa e negli Stati Uniti. Auguri papà, con i figli si scambiano consigli anche su internet e condividono l'amore per i supereroi. Va bene, andiamo allora a riprendere l'ascoltatore da Roma, Alessandro, che era presente ieri durante gli scontri tra la polizia e gli studenti. Qualcuno parla semplicemente di manganellate della polizia agli studenti, e che ci diceva una cosa prima. In realtà il 17, cioè il giorno prima, un gruppo di studenti si era riunito davanti alla facoltà di lettere, pochi studenti, impedendo che cosa, Alessandro? Non davanti, ma dentro sì, proprio. Certo. Semplicemente indirettamente, perché non direttamente, ma rendevano molto difficoltoso semplicemente accedere all'interno, perché poi bisognava passare facendosi largo tra di loro che insomma stavano là davanti, ma appunto per questo dico indirettamente. Poi appunto sì, erano gli stessi studenti che hanno marciato alla testa del corteo, perché quello striscione blu, l'onda, qualcos'altro, sì, sì, era già all'interno della facoltà martedì con questi ragazzi, quindi erano proprio loro che poi andavano là davanti. E il giorno dopo, appunto ieri, ci sono stati questi scontri, e io oggi vado in facoltà e trovo tutta la facoltà tappezzata di giornali che raccontano le cariche della polizia che avrebbero risposto al lancio di scarpe degli studenti. Bene, la mia testimonianza è questa: io sono arrivato all'università mentre c'erano gli scontri e in mezzo alle scarpe volavano sanpietrini, volavano bulloni, volavano pezzi di metallo. Chiaramente la polizia a quel punto risponde, e quindi non c'è soltanto questa protesta pacifica degli studenti, questo simbolico lancio di scarpe, dentro c'è altro. Non saranno stati i pazzi forsennati di cui parlava l'ascoltatore prima nel messaggio, il messaggio che ha letto adesso. Però comunque certo non c'erano solo scarpe. No, era una cosa organizzata. Ma sì, ma è evidente che è organizzato. Poi uno può criticare il protocollo, l'applicazione del protocollo, ma che ci sia un'organizzazione, seppure ristretta, di 30-40 persone, eccetera, eccetera, che come dire, punti allo scontro con la polizia. Ma insomma, di cosa stiamo parlando? È talmente evidente. Poi uno potrebbe dire: forse è meglio che la polizia non se ne occupi, che allora lo scontro non ci sia, che esca dall'università. Può darsi che sia una soluzione, non lo so, ma che ci siano. A questi ragazzi lo scontro serve. Perché serve? Perché dopo lo scontro segue il dibattito sullo scontro, in cui si parla di polizia fascista, in cui si parla di, di polizia che agisce su un mandato del governo, cioè si parla di tutte queste cose. Allora, siccome questi ragazzi, le organizzazioni studentesche italiane purtroppo, a differenza di quelle estere, non nascono autonomamente per, diciamo, una spinta dal basso, dagli studenti, ma hanno alle spalle sempre un appoggio politico. Molti di questi ragazzi sfruttano l'opportunità di guidare queste organizzazioni per iniziare in questa maniera una carriera politica, il 90% delle volte in una determinata area ben precisa. E quindi a loro lo scontro della polizia serve. Ma guardi, sono convinto anch'io di questo. La ringrazio, Alessandro. In cosa è dottorando lei? Archeologia. Grazie, buona serata. Buonasera. 27 minuti, titoli della 7. Non ci sono. Che cosa è successo? Ah, c'è la partita, è vero, non ci sono i titoli, va bene. Prima della pubblicità, allora andiamo in provincia di Modena da Gianfranco. Buonasera. Sì, pronto. Eccoci, Gianfranco. Ecco, che succede? Finalmente. Mi scusi. Sono breve perché sono stato già preceduto sull'argomento. Oggi sulla vostra emittente, nel primo pomeriggio, non so chi è che parlava, chi era il giornalista, chi era l'intervistato, praticamente si voleva come sfottere il Papa a riguardo il preservativo. Io dico che il Papa rappresenta Gesù in terra e come tale i cattolici devono seguire il suo insegnamento. Sarebbe troppo comodo farci una religione a nostro gusto e piacimento. Per cui chi si professa cattolico deve seguire, penso, l'insegnamento del Papa. E cioè cosa dovrebbe fare? Magari anche i nostri politici che in parte che si professano cattolici condividono in parte con sostenitori, convivono. Sì, con no, ho capito Gianfranco, e dunque? Eutanasia, che cattolici sono? Ci vuole il coraggio di difendere la nostra religione, altrimenti non professiamoci cattolici. Ho capito. Gianfranco, la ringrazio. Eccoci qui alle 20:11, Sky ripropone la sua intervista a Brunetta, sentiamola. Sulle strade, chi costringe la polizia a scontri? La polizia che ha altro da fare, dovrebbe fare altro. Io sto dalla parte dei poliziotti. Io sto dalla parte dell'ordine pubblico, io sto dalla parte delle regole, io sto dalla parte di chi vuole manifestare legalmente, democraticamente. Io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti, non di questi signori che per avere una qualche visibilità usano la violenza. Tutto qua. Sto dalla parte della democrazia, non dalla parte della violenza. Questa è la Brunetta, noi vi stiamo chiedendo, intervistata da Sky. Allora, Chiara da Brescia, buonasera. Non c'è più. Massimo da Torino. Massimo? Pronto? Dica, Massimo. Sì, buonasera. Senta, io Massimo, sono veramente... se lei abbassa la radio sentiamo tutti, sì, meglio, grazie. Sì, io sono allibito dalle amenità che sento nella vostra trasmissione, no? Cioè nel senso che voi ve la prendete con dei ragazzi a Roma che manifestano, e tutti attenti alla legalità, tutti belli moralisti eccetera, quando abbiamo un governo tutti contro i clandestini, tutti regolari, cioè quando abbiamo un governo, quando viviamo in un paese dove l'evasione fiscale abbiamo un record del mondo, la corruzione abbiamo un record del mondo, abbiamo sostanzialmente un governo che è riuscito a depenalizzare il falso in bilancio, cosa unica in tutto il mondo. Concediamo le piazze di tutta Italia a gente come Forza Nuova, che rappresentano la peggiore destra mondiale, con i vari saluti fascisti, le croce celtiche, le svastiche, però di queste cose non ne parlate. Cioè ve la prendete con 30 studenti a Roma che manifestano, ce la prendiamo? Penso, ce la prendiamo? Non criticate. Allora, negli anni 70 le manifestazioni si facevano con le molotov, poi si fanno con le scarpe, quindi passi in avanti. Beh, qua c'era qualche sasso dentro le scarpe. Questo berbenismo mi fa veramente ridere. C'era qualche scara, c'era qualche sasso, le voglio segnalare che dentro c'era qualche sasso, sì. Qualche sasso. Beh, perché sa, secondo lei tirare i sassi alla polizia è una cosa normale? Ma meno male. Io non dico che sia normale. Meno male. Dico solo che criminalizzare. Ma chi criminalizza? Chi criminalizza? È il contrario, è il contrario, Massimo. Delle manifestazioni di Forza Nuova cosa mi dite? Ma a me non mi interessa, le manifestazioni o sono legali o sono illegali, o sono autorizzate o non sono autorizzate. Nuova, movimento apologicamente assolutamente. Forza Nuova non è un movimento illegale, non è un movimento fuori legge, Massimo. Ah, mi scusi. Certo, non è fuori legge. No, nemmeno centrosinistra l'ho messo fuori legge, Forza Nuova. Massimo, abbia pazienza. Io non voto. Ma non mi interessa, nemmeno il governo di centrosinistra dove c'erano dentro i comunisti hanno messo fuori legge Forza Nuova. Guardi, a me le idee di Forza Nuova mi fanno schifo, se lo vuole sapere, ma non per questo dico che le manifestazioni di Forza Nuova non devono essere autorizzate. Questa è un autorizzate perché sfilano con le croce celtiche. Ma questo lo dice lei, poi quello è un altro discorso. E allora c'è il reato, perché non si muovono i magistrati? E infatti come mai non intervengono? Lo sto chiedendo io. Ecco, perché i magistrati non si muovono? Che, non lo so, lo sto chiedendo io a voi. Come mai non vengono criminalizzati? Io lo chiedo a lei perché anch'io non lo so. Che c'entra criminalizzati? Dove la democrazia non esiste. Sì, la democrazia non esiste. Per fortuna un paese dove la democrazia esiste, Forza Nuova può manifestare. Massimo, lei ha un po' invertito l'ordine dei fattori. È esattamente il contrario. In un paese democratico Forza Nuova può manifestare, ha capito? Questa è la differenza. Forza in un paese può manifestare se fa le braccia tese, se fa no, no, quello è un altro discorso. Per fortuna sono simboli assolutamente fascisti. Massimo, per fortuna. Sì, d'accordo, quello i magistrati se trovano dei motivi per incriminare, per l'apologia di fascismo, uno che fa lo troveranno, non mi interessa. Comunque, Massimo, in un paese democratico. Siamo in tanti a pensare nello stesso modo. Sarete in tanti, non lo so. No, meno male. Un'altra cosa, reato di falso in bilancio non ne parla nessuno. Ma che c'entra il reato di falso in bilancio? A parte che non è depenalizzato tutto il reato di falso in bilancio. delle pietre. Io come cittadino. Ma che c'entra? Che c'è? Classico esempio di benaltrismo, Massimo. Cosa vogliamo parlare del falso in bilancio? Vuole che le dica cosa la penso? Secondo me bisogna dare pene fuori. Lavoro che criminalizza i giovani, visto che siete tutti in legalità, i sassi, eccetera. Allora, dall'altra parte, io sto dicendo: viviamo una situazione economica fragilissima. Come il reddito di falso in bilancio non viene assolutamente citato? Cioè, ed è penalizzato. Guardi, quindi guardi. Se io un'azienda ne faccio di tutti i colori. Massimo. A parte che non è depenalizzato, primo. Poi come mai non si parla di un altro discorso? Visto che c'è ogni licenziati di lavoro sempre in maggior numero, sì. Lo sapete voi, lo sapete sicuramente, che nelle nuove leggi gli incidenti sul lavoro, cioè chi li crea, quindi gli imprenditori, ormai in moltissimi casi è stata ammorbidita questa cosa, quindi è consentito agli imprenditori di diminuire le norme di sicurezza, in quanto parecchi reati che potrebbero prevedere il penale sono stati assolutamente depenalizzati e c'è solo più un illecito amministrativo. Ma Massimo, come adesso, mai non se ne parla di questi francamente questo aspetto non lo conosco. Informatevi. Sì, mi informerò meglio, sono ignorante, mi professo ignorante su questo. Prima di recuperare con l'ascoltatore che ci chiamava da Torino ed era arrabbiatissimo sulle frasi di Brunetta, abbiamo Giuseppe Ayala in collegamento con noi, magistrato, è stato politico per tantissime legislature, adesso è consigliere presso la Corte d'Appello dell'Aquila, buonasera. Buonasera a voi. Abbiamo chiamato Ayala perché questa mattina Omnibus, in una trasmissione sul caso De Magistris, era ospite anche De Magistris, ho sentito da Ayala delle parole ragionevoli, allora volevo sottoporle anche all'attenzione dei nostri ascoltatori. Senta Ayala, innanzitutto che impressione le ha fatto il fatto che un magistrato, ancora un magistrato, insomma un suo collega fondamentalmente, ancora oggi, praticamente quasi da politico, anche se non ufficialmente, ha presentato proprio ieri la sua candidatura all'Europeo con l'Italia dei Valori, sia tornato a parlare di carte di Salerno, bisogna leggere le carte di Salerno e poi di poteri forti che mi hanno impedito di fare il mio lavoro, eccetera. Cioè, rispetto ad altri casi di magistrati come lei che sono andati in politica, qui c'è una rottura di De Magistris, a prescindere da come la si pensi su tutta la vicenda De Magistris, cioè si entra in politica non alla fine, diciamo, di un percorso, oppure come lei dopo un certo percorso, ma si entra in politica con una rottura molto pesante e molto forte. Ma guardi, i confronti sono sempre odiosi e non voglio stabilire nessun confronto, però come ha precisato anche stamattina nella stessa trasmissione il collega Carofiglio, lui come anche io a suo tempo, noi eravamo già fuori ruolo dalla magistratura perché i casi della vita, ci è capitata la stessa cosa sia a me che a Carofiglio, eravamo stati nominati consulenti della Commissione Antimafia, quindi il passaggio diciamo non è avvenuto proprio dalla toga che già non indossavamo più al Parlamento, ma questo non vuol dire nulla perché sono scelte personali che io rispetto, ci mancherebbe altro. Poi tutto più il problema si pone per il rientro dopo il mandato parlamentare. È lì che ci vuole, secondo lei, perché Mancino dice, come lei sa benissimo, ne avete parlato anche questa mattina, che non si può più rientrare. Io personalmente penso che sia sbagliato, perché altrimenti si fa una distinzione tra professioni. Per carità, il ruolo del magistrato è molto delicato, però ci sono anche altre professioni. Però noi avevamo provato durante la 14ª legislatura, quella che è finita poi un poco più di 2 anni fa, a fare una legge, perché ci vuole una legge, non c'è niente da fare, la quale prevedeva che nell'ipotesi del rientro del magistrato dopo il mandato parlamentare, il rientro non avvenisse di nuovo nella magistratura, ma per esempio all'Avvocatura dello Stato o nella magistratura amministrativa, che ha tutta un'altra funzione. Fu approvato addirittura dalla Camera questo disegno di legge, poi purtroppo in Senato non si arrivò a farlo diventare legge e poi non se ne è più parlato. Tornando al collega De Magistris, io non mi ergo a giudice di nessuno, ci mancherebbe altro, meno che mai di un collega che neanche conosco personalmente. Sono d'accordo con lei, i toni e i contenuti dell'intervento di stamattina e De Magistris, come lei ha visto sia io che Carofiglio, insomma abbiamo reagito, perché sostanzialmente adombravano un complotto a suo danno, ma non ben precisato, non ben chiarito. Carofiglio è stato anche molto preciso nel dire, non puoi dire queste cose, lanciare queste ipotesi. Non è la prima volta, per carità. Sì, e devo dire la verità, sono rimasto anche io abbastanza sorpreso, anche io ho detto la mia. Quello che mi è piaciuto precisare, senza con questo voler avanzare ovviamente alcuna ombra, me ne guardo bene sul collega De Magistris, è la vicenda da cui viene fuori, diciamo, la sua notorietà, che è una vicenda anche molto legata a uno scontro inedito, assolutamente inedito, tra Procura della Repubblica, che è stata una pagina delle più tristi della storia giudiziaria italiana. Ripeto, io non so se ha torto Salerno o se piuttosto abbia ragione Catanzaro, non me ne importa niente. Come cittadino prima e come magistrato poi, io trovo che quella vicenda è stata una cosa veramente agghiacciante. Una Procura della Repubblica che sequestra gli atti di un'altra procura, la quale a sua volta fa un controsequestro, per cui a me basta questa immagine per sentirmi veramente disorientato. C'erano questa mole di documenti che veniva, come dire, protetta da due carabinieri. Uno era mandato alla Procura della Repubblica di Catanzaro e l'altro alla Procura della Repubblica di Salerno. Mi dica lei se in un paese che si giustamente ricordo ogni tanto essere uno stato di diritto può accadere una cosa. No, al centro di tutto questo naturalmente c'era De Magistris, ma ha ragione lei, a prescindere poi dalle ragioni di questo mondo. No, ma certo, a prescindere. Però, indubbiamente la storia da cui viene fuori è una storia veramente torbida, non c'è dubbio. Io l'ho definita torbida. E un'altra cosa, il problema secondo me che riguarda De Magistris è che davvero, a parte pochi eletti che dicono di sapere la verità e di conoscere tutto e che davvero ci sono questi poteri forti che hanno impedito De Magistris di svelare chissà che, è che io penso che il 99% degli italiani poi alla fine non si possa nemmeno fare un'idea di questa vicenda. Cioè, quando un magistrato va in televisione e dice che a domande ci sono i poteri forti, sì, esistono i poteri forti, che mi hanno impedito di fare che cosa? Perché volevo svelare un... Adesso non voglio dire che basta il nome delle inchieste per metterle in croce, le inchieste Why Not, Poseidon, queste cose qua. Va bene. Però insomma, il problema è che il partito della legalità, che dovrebbe essere in teoria l'Italia dei Valori, porta al Parlamento Europeo, se mai De Magistris, comunque candida, una persona che dice che all'interno della che non si fida della magistratura che lo ha spostato. Cioè, questo è il punto. C'è una contraddizione in termini quasi. Esatto. Ripeto, guardi, con tutte le ragioni che gli si possono riconoscere dal punto di vista umano, tanto per usare una frase non elegantissima, sarà pure incazzatissimo e ci avrà pure le sue ragioni. Sì. Però un magistrato, sia pure da ieri, lui è da ieri fuori ruolo, perché il sistema ha votato ieri il suo fuori ruolo, che dice queste cose, francamente io non ricordo molti precedenti nella storia dei non pochi magistrati che sono passati a vivere un'esperienza parlamentare. E personalmente devo dire, l'ho trovata una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, ma forse anche più che perplesso, perché tra l'altro sono state delle accuse estremamente col sapore della dietrologia, cioè non precisate, non buttate così. Ripeto, lui sarà perfettamente in buona fede, io non discuto, però forse un po' di cautela e di prudenza insomma dovrebbe essere richiesta. E poi a un certo punto, quando si entra in politica, spero che si parlerà d'altro, perché non è che può fare il politico per ripetere le accuse che fa quando era magistrato, naturalmente. Secondo me la mia sensazione è che è stata molto una sortita alla campagna elettorale già. Probabilmente c'è un certo elettorato che guarda da quella parte, che rimane diciamo affascinato da questo tipo. Beh, sì, dal... mentre chiaramente è una sortita della campagna elettorale. Cioè, ma io un po' di il cavaliere, no, consumata. certo, lo zorro che combatte contro i potenti. La ringrazio molto, buona serata. Di niente, buona serata. 20 e 25, dove andiamo? 800 24 00 24. Non abbiamo recuperato l'ascoltatore prima, che evidentemente non ci vuole più parlare, vabbè, pazienza, insomma. Luigi da Piacenza, buonasera. Buonasera. Sono rimasto un po' in attesa. Mi scusi. No, ci mancherebbe. Mi fa sempre infervorare la storia del complotto di Stato e il nascondersi dietro l'evocare il complotto di Stato per giustificare comportamenti al di fuori della legalità come reazione. Infatti approvo come lei al 150% le parole di Brunetta. Le prime e le seconde inteso come delegittimazione del ruolo di guerrigliero, cioè di togliere questa alea poetica, sì, questa veste poetica alla figura che questi volevano rappresentare. Ma la cosa che mi lascia un po' così dubbioso, o perlomeno con dei dubbi, sono le dichiarazioni di alcuni esponenti appunto dell'Italia dei Valori che vanno in scontro con le dichiarazioni di Brunetta. Allora, io penso che sia un'incongruenza politica quella dell'Italia dei Valori, come difensori dei valori e della legalità come primo valore, negare le dichiarazioni del ministro Brunetta che delegittima il comportamento di una minoranza, che devo dire, sinceramente, conferma l'estremo situazione democratica in cui viviamo, perché abbiamo, da un punto di vista mediatico, una dittatura dell'informazione di pochi quando c'è invece un silenzio della maggioranza, nel senso la maggioranza silenziosa pesa meno da un punto di vista mediatico di una minoranza rumorosa. Può darsi questo, in alcuni momenti è così, però insomma io non farei poi il discorso al contrario, perché siamo qui a predicare che in realtà c'è una grande democrazia, che si può parlare, che c'è grande spazio per tutti. Non direi che c'è invece una dittatura di una minoranza che manipola l'informazione. La ringrazio comunque di questo intervento. TG2. Ergastolo al padre mostro, accetto la sentenza, la sua prima reazione, finirà in un manicomio criminale. La figlia Elizabeth dice paghi per i suoi delitti fino alla morte. Berlusconi interviene sulla lettera dei 101 deputati del PDL sul pacchetto sicurezza e dice condivido lo spirito, la Lega non può volere sempre tutto. Bossi, troveremo l'accordo. Dal Camerun il Papa mette in guardia l'Africa da chi non ha scrupoli a sfruttare il continente con avidità senza dare nulla in cambio. Incontro di Benedetto XVI con i malati di AIDS. E ancora mistero sulla donna trovata legata in una pensione a Roma. Il volto tumefatto, a terra, mani e piedi bloccati. Adesso addosso una finta cintura esplosiva. Se il capo in ufficio provoca, il dipendente può rispondere per le rime senza rischiare il licenziamento. La Cassazione detta le condizioni per un'espressione anche pesante, purché non sia una minaccia. Eccoci qua, 20:34, da Benevento ci chiama Carlo, buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io riflettevo, al di là adesso di chi ha ragione, la polizia, gli studenti, è giusto che le regole vengano sempre rispettate, se c'era un'ordinanza forse gli studenti potevano anche riunirsi dove c'era il raduno della manifestazione. Però una riflessione mi viene su Brunetta. Scusi un attimo, io reporter su Sky TG24. Di irruzione all'interno della sala del Consiglio per chiedere soprattutto una cosa, la proroga degli sfratti sugli striscioni e gli altri slogan che rivendicano. È un'altra cosa, credo, perché ci sono caschi, è un'altra manifestazione. Pensavo fossero immagini della manifestazione di ieri. Dica. No, però poi riflettevo, però in questo paese dove è così difficile far rispettare le regole, dove si arriva che alla Camera dei Deputati abbiamo bisogno delle impronte digitali per far rispettare una regola, penso che loro dovrebbero dare l'esempio, come il nostro Brunetta. Loro chi, scusi? Loro deputati, no? Che per non far votare gli altri bisogna mettere le impronte digitali, oppure prendere una presenza e credo anche una diaria giornaliera. E poi si combattono i fannulloni, dove giustamente tutti i dipendenti del comune di Portici, cosa della mia regione, vengono giustamente, deve arrivare la polizia, perché forse chi ha l'amministrazione, credo che ci sia una convivenza in tutto questo, perché è impossibile non rendersi conto che il 50% dei dipendenti non vanno al lavoro. Come anche Brunetta, però anche lui non è che può dare una lezione di morale a noi, che quando era a Strasburgo aveva il 50% delle presenze. Non che questa sia una cosa... Però Carlo, mi perdoni, adesso la questione delle presenze di Brunetta è controversa, perché lui dice che alcuni dati non sono veri, eccetera, ma non è questo il punto. Con tutto il rispetto per quello che lei ci sta dicendo, e che cos'è quello che ci sta dicendo lei, non ci possono dare lezioni i politici che appunto, a parte che stiamo sempre generalizzando, comunque va bene lo stesso, non ci possono dare lezioni i politici, i quali hanno bisogno delle regole di fini perché altrimenti fanno i pianisti, che sono assenteisti in Parlamento, eccetera. Però c'è sempre la solita abitudine, stiamo parlando di una cosa e se ne affronta un'altra. Io credo che parliamo di una cosa, sono giuste o no certe regole sulle manifestazioni, sui cortei, quando un poliziotto si vede lanciare delle pietre, cosa deve fare? Perché può darsi pure che io mi sbagli e invece sia giusto non intervenire, sia giusto non manganellare in alcuni casi, sia giusto non usare la forza in alcuni casi, io non lo so, però c'è questa abitudine di parlare di un'altra cosa Cioè lei sta parlando di un'altra cosa, che è quella delle abitudini dei politici italiani e delle cattive abitudini di alcuni politici, non di tutti naturalmente, di alcuni politici italiani. Io credo che non abbia nulla a che fare però con la vicenda della Sapienza, mi perdoni Carlo. Io parlavo del discorso dell'ecco, per far rispettare le regole, per noi cittadini dover sentire il dovere civile di rispettare le regole, forse comunque c'è bisogno che proprio i politici diano questo esempio. Io credo che la polizia giustamente rappresenta noi tutti in quel momento, sì. E se a noi tutti ci tirano le pietre, io non sono quello che porge l'altra guancia, cerco di difendermi. Quindi se la polizia sta facendo rispettare me, anche se io non ero lì fisicamente, allora è giusto che la polizia reagisca. Non credo che possano stare lì a ricevere insulti, pietri o sputi e non reagire o non far di tutto per far rispettare le regole. Sì, comunque Carlo, guardi, io credo semplicemente abbiamo, ripeto, ogni tanto l'abitudine a parlare di altre cose quando si affrontano alcuni problemi. Qui c'è un problema all'interno di alcune università che riguarda la agibilità democratica dell'università, cioè ci sono gruppi di studenti che fanno il bello e il cattivo tempo, lo fanno da anni, occupano e non dovrebbero occupare, le lezioni vengono rinviate, l'attività didattica viene disturbata, questo è il punto fondamentale. E io credo che in fondo siano un'estrema minoranza rispetto alla popolazione universitaria. La ringrazio, andiamo a Bari, Saverio, buonasera. Buonasera, dottor Cusciani, io proprio di questo volevo parlare, della ciò che è successo a Roma ieri, credo, no? Sì. Ieri sera io ho visto in diretta ciò che ci hanno fatto vedere i TG e per la verità non ci ho capito molto. Ho visto dei ragazzi che tentavano di uscire, la polizia che li ha fermati, e poi però ho raccolto ciò che dicevano due o tre ragazzi. Ma vede, io oggi ho risentito, venendo in macchina, mi stavo spostando, quando lei ha iniziato, ha introdotto ciò che ha detto il ministro Brunetta. E anche quelle affermazioni mi sono sembrate abbastanza improprie. Insomma, un ministro non può dire dei cittadini che sono dei guerriglieri, non so. E però perché non può? Perché non può? Non può, intanto perché, guardi, se non c'è un dato di fatto reale, obiettivo, se non c'è un'azione di guerriglia vera, quelli a me non sono sembrati dei guerriglieri. Infatti, qualche ora dopo, in un'intervista a Sky, Brunetta ha detto: beh, il termine guerriglieri è un po' troppo romantico, eccetera. Sono semplicemente quattro ragazzotti. Il ministro Brunetta, sì. Tra l'altro, è il mio ministro, perché io sono un infermiere. Guarda, una persona di autorità, quando pronuncia una frase, io mi rendo conto che può rispiegarla meglio, ma intanto lui ha detto quello che ha detto. Sì, no, ma non c'è dubbio, Saverio, non c'è dubbio, però si possono ritirare alcune parole. No, però Saverio, lei ha ragione, naturalmente quando uno dice sono dei guerriglieri, poi qualche ora dopo dice no, mi sono sbagliato, forse in realtà non ha detto mi sono sbagliato, ha detto confermo tutto quello che ho detto, ma sono stato anche troppo buono, perché guerrigliero è una parola nobile. Va bene. Però Saverio, mi scusi, noi però protestiamo spesso sul fatto che i politici usano troppo termini in politichese, che parlano sempre in maniera piuttosto così, no? Criptica, con termini che la gente non capisce. Adesso c'è un ministro che in più occasioni, anche in maniera, se vuole impropria, anche in maniera provocatoria, dice come la pensa, cioè dice il fatto che l'onda, alcuni studenti che rappresentano l'onda, anzi gli studenti che rappresentano l'onda, sono un'estrema minoranza, che non si presentano alle elezioni, universitarie, che fanno manifestazioni che magari non si dovrebbero fare, che rovinano la vita universitaria di altri studenti. Quello che pensa lo dice. Allora sì, posso rispondere? Certo, certo. Io la ringrazio intanto perché mi dà la possibilità di parlare con lei. Guardi, io condivido in parte quello che lei dice, perché comunque le affermazioni di un ministro, anche se chiare, devono essere rispettose di tutti. In quanto io ho chiamato stasera non per fare polemica, anzi per conoscere meglio, in una trasmissione come la sua, tutti i termini di una questione. Io vorrei proprio sentire la tesi, l'antitesi e poi farmi io una ragione. Sì, ma su che cosa? La tesi su che cosa? Su quello che è accaduto? Sì, Ma sa, su quello che è accaduto ognuno dice la propria. La polizia dice che non ha tirato dei sassi, gli altri dicono che sono stati manganellati. Sarebbe interessante che la sua trasmissione potesse andare alle fonti dirette. Ma guardi, ci hanno chiamato due studenti. Uno era stato, è stato testimone e ha detto sostanzialmente che i ragazzi hanno sono stati loro a addirittura organizzare e preparare dal giorno prima manifestazioni in cui poi non è che sono volate le scarpe, sono volate anche i sassi e poi a quel punto la polizia ha risposto. Però e hanno noi, sicuramente sbagliato. Noi non è che vogliamo credere a questa versione, per carità, o solo a questa versione. Resta il fatto che gruppi di studenti vogliono assolutamente provocare lo scontro con la polizia, perché questo scontro serve, su questo non c'è dubbio, serve alla polizia. Che serve questo scontro? Io non... e ancora, ancora questo non sono riuscito a capirlo. Saverio, spazio ad altri ascoltatori, la ringrazio. Alessandra da Milano. Buonasera Cruciani. Buonasera, dica. Il mio intervento a questo punto è anacronistico, nel senso che sono un medico e chiamavo per la cosa che era stata detta prima circa il problema della denuncia dei pazienti. Sì, dell'identificazione del paziente. Che mi vuole dire su questo? No, le volevo dire solo questo, che sono state dette due cose ma entrambe imprecise. Cioè? Io lavoro a Milano, quindi Regione Lombardia, assolutamente, sono un ginecologo per cui lavoro prevalentemente con donne. Abbiamo un grossissimo numero di utenti che sono straniere e molte di queste sono temporaneamente presenti sul territorio, quindi con un permesso di soggiorno. Alcune con, altre in fase di rinnovo e altre assolutamente prive di permesso di soggiorno. Sì. Abbiamo una grossa fetta di utenza e non siamo enti ospedalieri. Sì. Quindi il posto di pulizia da noi non c'è. E per poterle visitare non è vero che non dobbiamo identificarle, perché per fornirgli quel tesserino che gli dà l'accesso alle cure sanitarie temporaneamente. E se non ce l'hanno? E se non ce l'hanno, noi fino adesso gliel'abbiamo sempre dato. Esiste un codice in tutta Italia che si chiama STP, straniero temporaneamente presente. Qualcuno mi dice che fine dovrà fare questo codice. E dunque, mi scusi Alessandra, mi scusi, se si presenta da lei una signora, una signorina, insomma una donna, senza alcun documento, per essere curata, per essere visitata, e dichiara le sue generalità, false o corrette che siano, voi vi limitate a curarla naturalmente e anche a fare questo STP, come si chiama? La signora ha bisogno di fare degli accertamenti, ovviamente sì, perché è l'unico modo che ha per accedere agli accertamenti. Ma questo è così in tutta Italia. No, ma ho capito perfettamente. Quello che si vuole modificare è proprio questo. Cioè lei a un certo punto, se una persona dà delle generalità, dovrebbe comunicare, non si sa poi come e quando comunicare ancora il fatto che è presente in quel momento una persona che non ha documenti. Questo credo, certo. No? Cioè. Tenga conto che molte di queste persone sono donne incinta, per cui dopo aver ottenuto un certificato, con la mia comunicazione vanno direttamente in questura e ottengono un regolare permesso di soggiorno per lo stato di gravidanza che si protrae fino a che il bambino ha 6 mesi. Le pare che io debba comunicare alla questura una cosa che la questura sa già? No, no, certo Alessandra, la ringrazio per questa telefonata, perché evidentemente poi le cose non sono così semplici, abbiamo un minuto di ritardo e dunque diamo la linea al traffico e ci sentiamo domani alle 18.30. Davide da Torino, Fabrizio da Padova e Marco da Padova, e se volete domani 18.30. Ciao. La zanzara.